Bene, oggi vogliamo insieme rispondere a una domanda. Dov'è Dio? Dov'è Dio? È una domanda che in molti si fanno, è una domanda molto frequente in periodi e stagioni come queste. Dov'è Dio? Questa è la domanda che fanno le persone che vivono stagioni difficili, no? Quando ti trovi ad attraversare un momento difficile della tua vita, è molto probabile che ti fai questa domanda: ma Dio dov'è? In tutto questo dov'è? Oppure è una domanda che si fa quando si è sopraffatti dalla quantità di male che si vede o che si sente, no? Quando vediamo male, quando sentiamo del male, e ogni giorno quando accendiamo la televisione o andiamo a leggere i nostri giornali o guardiamo, consultiamo dai social le notizie, non sono confortanti, e quando queste ci assalgono e ci arrivano in quantità così elevata, ci ritroviamo a domandare sinceramente: ma dov'è Dio? Dio dov'è in tutto questo? Questa è una domanda che si pone anche chi ha poca fede o chi non crede affatto in Dio, no? È una domanda per loro sarcastica, è una domanda cinica, è una domanda che va a criticare la posizione di coloro che credono che un Dio c'è. E quindi ci sono persone che fanno questa domanda e dicono: dov'è Dio? Dov'è il vostro Dio? Questa è una domanda che ritroviamo anche nei Salmi, è una preoccupazione anche del popolo di Israele quando si trovavano ad attraversare delle situazioni difficili, si preoccupavano di quello che le altre nazioni avrebbero creduto, pensato di loro e del loro Dio. Dov'è Dio? C'è un Dio, in altri termini, o non c'è un Dio? Ma questa è anche una domanda che i credenti si pongono, non è solo una domanda di chi dubita, chi non ha fede o chi è sopraffatto da situazioni difficili. Anche noi, tutti noi, io credo che almeno una volta nella vita o più volte nella vita, se siamo sinceri, ci siamo posti questa domanda. Forse tu in questa stagione, in questo momento, oggi ti stai domandando: ma Dio dov'è? Dio dov'è nelle mie giornate? Dio dov'è nelle mie situazioni? Dio dov'è? E io voglio dare una risposta ovviamente biblica, perché Dio si rivela a noi attraverso la sua parola. Lui ha scelto di rivelarsi a noi attraverso la Bibbia. Io voglio ricordarci che il motivo per il quale ogni domenica noi attingiamo dalla parola di Dio, dalla Bibbia, è perché è Dio che ha scelto questa quale fonte per eccellenza per manifestare, esprimere, descrivere i suoi attributi, la sua persona, il suo modo di agire. Ed è per questo che noi, se vogliamo compiacere a Dio e conoscerlo realmente, dobbiamo aprire la fonte per eccellenza che Lui ha scelto per mostrarci chi Lui è. E nella parola di Dio io voglio andare a leggere con voi due piccoli versi che si trovano uno all'inizio del Vangelo di Matteo e uno alla fine, proprio quale ultimissima frase del Vangelo di Matteo. All'inizio del Vangelo di Matteo ci viene raccontata quella storia che noi tutti conosciamo, no? Esattamente come Gesù è nato. E a un certo punto c'è una citazione che l'Evangelista fa, ed è la citazione di Isaia 7. E si trova in Matteo 1:23, lo leggiamo insieme. Qui noi leggiamo: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Dio con noi. Noi non leggiamo nei Vangeli che Gesù sia mai stato chiamato Emanuele. Però noi sappiamo che questo è un nome che gli è stato attribuito già in maniera profetica secoli prima della sua nascita. Ed Emanuele, questo nome unico che non si è mai sentito nella Bibbia, in nessun caso, nessun personaggio biblico si è mai chiamato in questa maniera, è un nome che attribuisce a Gesù un significato. Infatti questo nome ci fa capire esattamente perché Gesù è nato, perché è venuto e perché è esistito su questa terra. Il motivo per il quale Gesù è venuto su questa terra e ha vissuto la sua vita terrena è per manifestare all'umanità la vicinanza di Dio. Dio si è fatto uomo e ha abitato in mezzo a noi. Quindi quando noi leggiamo questo nome ci dobbiamo rendere conto che è una definizione specifica di chi Gesù è, di quello che Lui ha fatto per noi. Lui è venuto ed è ha vissuto nel mondo, su questa terra, ha camminato come noi camminiamo, è stato tentato come noi siamo tentati, è stato sopraffatto da dolori e sofferenze. Qualche settimana fa ne abbiamo parlato delle sofferenze che Cristo ha patito. Lui ha patito tutte le sofferenze che noi potremmo mai vivere su questa terra, nella nostra vita. Quindi Gesù è venuto per manifestare l'amore, la grazia, la vicinanza di Dio a te e a me. Dio con noi. E probabilmente nel leggere questo puoi pensare, no, ecco, Gesù è venuto e ha vissuto con noi. E chi ha avuto l'esperienza e il privilegio di vedere Dio con noi sono stati i suoi discepoli o le persone che lo hanno incrociato, le persone che hanno beneficiato del suo tocco, della sua guarigione, dei suoi insegnamenti, delle sue parole in prima persona. Queste persone 2000 anni fa hanno sperimentato Dio con loro, perché hanno avuto un rapporto diretto, personale, intimo con Gesù. Però io voglio portarvi alla conclusione dell'Evangelo di Matteo, perché la conclusione dell'Evangelo di Matteo ci rivela una verità che ha significato per noi oggi e che nel momento in cui tu la fai tua, trasforma la tua vita. Il Vangelo di Matteo conclude con il grande mandato, versi che conosciamo molto bene, però vorrei che oggi riflettessimo sulla promessa che Gesù ci lascia. In Matteo 28, capitolo 28, versetto 18, noi leggiamo: e Gesù, avvicinatosi, parlò ai discepoli dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, ascoltate ora, amici, fratelli, sorelle, ascoltate ora, Chiesa, ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente, dice Gesù. Che cos'è la fine dell'età presente, che ci rivela che Dio è con noi ancora oggi? La fine dell'età presente è tutto il periodo, tutto il tempo che precede il suo ritorno. È la stagione, il tempo nel quale noi stiamo vivendo, gli ultimi tempi. Questa è la fine dell'età presente, ci sarà quando Lui tornerà e quando noi entreremo nella vita eterna. Quindi in tutto questo periodo Gesù che fa? Promette: io sarò con voi. Quindi questa esperienza di vivere Gesù vicino non è un'esperienza che è data, quale privilegio, solo ai discepoli 2000 anni fa o alle persone che hanno potuto camminare con Gesù, ascoltare la sua voce, toccarlo, ridere, scherzare, mangiare con lui. No, questa esperienza è data a noi da poter vivere ancora oggi, perché Gesù ha prometterlo, non è perché io lo sto dicendo. Non è solo perché io ti voglio incoraggiare oggi a scoprire questa verità, ma è perché Gesù lo dice. E quello che Gesù promette, Lui sempre lo mantiene. Tutto quello che Gesù dice è verità. Lui non viene mai meno a una parola data. E se Gesù dice che Lui è con noi e lo sarà per tutta questa età, per tutto questo periodo, allora è vero. Possiamo crederci. E il bello di questa affermazione è che Gesù non solo dice... E sarebbe bastato poter leggere noi oggi dal Vangelo di Matteo le parole "io sarò con voi fino all'età presente", ma lui aggiunge "io sarò con voi tutti i giorni". Tutti i giorni. Meraviglioso. Tutti i giorni. Pensate di rimuovere queste due paroline dalla frase. Beh, sarebbe altrettanto incoraggiante, sarebbe altrettanto bello, è una bella promessa. Ma lo splendore di questa promessa, la bellezza, la gloria di questa promessa è che Gesù dice: io sarò con voi, non a tratti, non a giorni alterni, ma tutti i giorni, ogni giorno. Rifletti un attimo su questo. Tutti i giorni. Se ti stai chiedendo dov'è Dio nella mia quotidianità, nelle mie circostanze, nella mia esperienza di vita, questa è una promessa per te. Lui è più vicino di quanto tu credi. Lui è proprio così vicino da poter ridefinire completamente la tua giornata e poterti attribuire il privilegio di non essere mai solo. Sapete cosa significa questa frase in altri termini? Che tu non sei mai solo, mai, nessun giorno sei solo, tutti i giorni Gesù è con te. Non hai più possibilità di vivere solitudine se sei un discepolo di Cristo. Gesù viene ad abitare nella tua vita e lui cammina con te, mangia con te, opera miracoli con te. Lui è con te ogni giorno. E questo non vale solo per quei giorni nei quali tu lo senti vicino. Io amo sentire la presenza di Dio, credo che tutti noi amiamo sentire la presenza di Dio, amiamo sentire quando la nostra sfera sensoriale, no, emotiva, è coinvolta nella nostra esperienza spirituale con Dio, no? Ovvero quando c'è euforia o appagamento, quando viviamo quella pace che sentiamo, che ci riempie completamente, ci fa sentire appagati, completi, pieni, in pace. Gesù è presente in quei giorni e in quelle esperienze lì, ma lui è presente anche quando tu ti senti affranto, quando tu ti senti depresso, quando tu ti senti triste, quando tu ti senti che lui non c'è. Lui c'è. Lui c'è, non è una questione sensoriale, non è basato sulla tua emotività o su quello che provi e senti, è una promessa, lui la mantiene e vale per ogni giorno, il giorno nel quale tu senti la sua presenza e il giorno anche nel quale tu non senti la sua presenza, lui mantiene la sua promessa perché è fedele, lui è con te tutti i giorni. Tutti i giorni c'è un salmo che ci ricorda, e non solo questo, il Salmo 34, ma non solo questo, ci ricorda che Dio, lo leggiamo, il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Il Signore è vicino a coloro che hanno il cuore afflitto, a coloro che hanno la giornata storta, a coloro che hanno una giornata difficile, un periodo difficile, una stagione difficile. Dio è vicino. Perché pensate Dio abbia voluto scrivere nella sua parola una frase come questa? Perché lui oggi ci vuole ricordare attraverso il Salmo 34 che lui è vicino a coloro che sono afflitti? Beh, sicuramente per manifestare e farci riconoscere la sua misericordia. Lui è compassionevole, lui è misericordioso. E se stiamo soffrendo, se siamo nell'afflizione, lui ci vuole far sapere che è interessato alla nostra tristezza, al nostro abbattimento, alle nostre sfide, alle nostre sofferenze. Lui è vicino a noi. E questo è quello che significa questo verso. Ma c'è un'altra verità nascosta in queste parole. Io credo che Dio abbia voluto mettere queste parole nella sua Bibbia, nella sua parola, per fare in modo che il momento di abbattimento e la giornata di afflizione non produca in noi una convinzione sbagliata, una bugia, ovvero che Lui è lontano. Lui ci dice oggi, il Signore è vicino, Lui è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, per farci comprendere che non dipende dalla giornata che stai vivendo la sua vicinanza. Lui promette e mantiene la sua vicinanza. Non permettere al tuo stato d'animo, non permettere alla tua afflizione, alla tua sofferenza, al tuo sgomento, alla tua ansia, al tuo stress, di farti credere qualcosa che sia diverso dalla verità della promessa di Cristo Gesù per la tua vita. Il diavolo è un bugiardo, il diavolo viene con bugie e le sue bugie sono in antitesi con le promesse di Dio, perché lui vuole che noi crediamo le bugie sue per non abbracciare, godere e vivere il privilegio delle promesse di Dio. Io oggi ti voglio ricordare che la promessa di Dio per te è che lui è con te ogni giorno, il giorno facile, il giorno difficile, il giorno dove stai bene, senti la sua presenza e sei spinto ad adorarlo, è il giorno nel quale lo senti distante, lo senti separato da te, non senti la sua vicinanza, non senti il suo calore. Questo non significa che lui non è vicino, perché lui mantiene ciò che promette. Lui è vicino, lui è vicino oggi, lui è vicino a me e a te, e non è una questione di emozioni, non è una questione di emozioni, non è una questione di meriti. Non so se voi siete come me, però io sono così. Ci sono dei giorni e dei momenti durante la giornata dove mi sento degno della presenza di Dio. E ci sono momenti della giornata, o giorni interi, o stagioni intere nella mia vita, dove io non mi sento degno della sua presenza. E la mia valutazione, il mio legalismo, la mia percezione di meriti mi fa credere più o meno che Dio è vicino. Non so se sei come me. A volte io penso che non merito la sua vicinanza. Io penso che il mio carattere, il mio modo di fare non merita la sua presenza. Se sei come me, a volte probabilmente non ti piaci. E pensi, non piacerò agli altri. Quando non piace a te stesso, di conseguenza quello che pensi di te stesso è che non piacerai neanche agli altri. E una conseguenza immediata è che pensi che non piaci neanche più a Dio. E quando questi pensieri prendono piede, cominci a convincerti che Dio è lontano da te in alcuni momenti della tua vita, perché non meriti la sua presenza, perché non ti comporti bene abbastanza, perché non hai il diritto di averlo al tuo fianco, perché non piace a te stesso, figuriamoci se piace a Dio. E tutte queste sono delle bugie, perché anche quando io non piaccio a me stesso, tu non piaci a te stesso, Dio si compiace ancora di te perché ti ama e il suo amore è incondizionato e non dipende dai tuoi meriti e non dipende dalla tua prestazione. Quando Gesù dice io sono con te ogni giorno della tua vita È una scelta di amore quella che lui fa, e il suo amore è perfetto. Lui sceglie di amarci di quell'amore che troviamo descritto in 1 Giovanni al capitolo 4, versetto 10, dove c'è scritto che l'amore che egli ha amato noi, questo è l'amore, questo è il vincolo di relazione con Dio. Non è un merito che guadagni, non è un trofeo che raggiungi, non è una prestazione che attira l'attenzione di Dio al punto tale che Lui può amarti, Lui adesso ti reputa degno di avvicinarsi a te. No, niente di più sbagliato. Dio è vicino a te in virtù di quello che Gesù ha fatto per te e per me. Lui è morto sulla croce, ha pagato per i nostri peccati, e non c'è più nulla che ci può separare da Dio, perché anche le tue più profonde colpe, le tue mancanze più grandi, le tue deficienze che fanno male a te stesso, non possono separarti più da quel Dio che ti ama e che ha fatto pagare la pena del riscatto attraverso Cristo Gesù sulla croce. Tu sei amato ogni giorno incondizionatamente, alla stessa maniera, nella stessa misura, da un Dio compassionevole che ti ama per grazia e non per meriti da te ottenuti. Dio è con noi tutti i giorni. Te lo stai domandando ancora? Dov'è Dio? Dio è proprio lì. Dio è proprio qui. Gesù è proprio qui. Gesù è al mio fianco. Gesù è al tuo fianco in questa giornata. Che ti piaccia o meno, perché magari provi vergogna. Che tu senta che meriti la sua presenza o meno, perché lui ti ama incondizionatamente, ha pagato il prezzo di tutte le tue mancanze. Che tu lo provi, che tu lo senti, che la tua sfera emotiva ne sia toccata e coinvolta, o che tu non provi alcunché, Dio è presente perché mantiene la sua promessa. Dio è con te, Dio è con me oggi. Forse la domanda giusta da farci insieme oggi non è dov'è Dio, ma dove siamo noi. Dove sei tu oggi? Dove ti trovi nel considerare queste verità? Stai accettando una bugia che ti tiene ancora separato, o nella convinzione di essere distante da Dio? O accetti la verità e godi del privilegio che ti è dato per grazia? C'è qualcosa che devi fare per meritare questo? No, non c'è niente che tu possa fare per meritare il suo amore. È una grazia, è una continua grazia, è solo per grazia. E io voglio ricordartelo oggi. Oggi abbiamo modo di avvicinarci a quel Dio che è già vicino. Oggi noi possiamo scegliere di rimuovere la bugia che il diavolo cerca di continuamente insinuare nella nostra vita. Non sei degno, non sei abbastanza, non lo meriti, sei il peggiore, non sei pulito, sei sporco. Tutte queste condanne, tutte queste bugie che vengono dal maligno, questo è il momento, questo, proprio questo. Esattamente questo è il momento per rimuoverle alla luce della parola di Dio. È per questo che noi leggiamo la parola di Dio, è per questo che meditiamo sulla parola di Dio, perché la parola di Dio è verità. E come dice Gesù stesso, è la verità che ci rende liberi. Liberi da chi? Liberi dal bugiardo, liberi dal peccato, liberi dalla morsa opprimente che il diavolo ha su di noi, liberi dalla prigionia e dalla schiavitù di quel ladro, di quel distruttore che viene per sabotare e per dividerci da quel Dio che invece ha già fatto tutto per unirsi a noi. Dio è con noi, Lui è Emanuele. Dio è con te. Vogliamo avvicinarci a Lui. Io voglio invitare il gruppo Lode a vivere un tempo di adorazione. E quello che vogliamo fare insieme è stare alla Sua presenza. Forse non hai mai aperto il tuo cuore a Gesù e queste parole sono molto nuove per te. Forse pensavi che Gesù fosse una religione, delle regole da seguire, che dovessi meritare qualcosa per avere quella fede che vedi magari in me, in noi. Questo è il momento opportuno per renderti conto che Gesù ti ama così come sei, incondizionatamente, e vuole vivere con te e non lasciarti solo nella tua vita. Forse ami il Signore da anni, hai un'esperienza lunga decenni di cammino con Cristo, eppure avevi bisogno di sentire queste parole oggi per riconsiderare la tua posizione, ciò che credi e ciò che stai accettando, quale verità o quale bugia, per smascherare la bugia di Satana e far tua la verità di Dio. Forse hai cominciato a credere che Lui è distante da te, che Lui è distratto, che Lui è disinteressato alle tue circostanze, alla tua quotidianità. Questo è il momento opportuno per ricordare a te stesso: Gesù è vicino, Gesù è con me. Oggi voglio rileggere le sue parole. Io, dice Gesù, non qualcun altro, lui in persona, non delega qualcun altro questa vicinanza. Io, dice il Gesù al quale ogni autorità è data. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Ci avviciniamo a te, Padre, nella consapevolezza che tu sei già vicino a noi. Tu hai fatto tutti i passi necessari per avvicinare un'umanità distante da te. Riceviamo il tuo perdono, riceviamo la tua grazia, riceviamo il tuo amore con gratitudine e anche con sorpresa, perché è sempre meraviglioso scoprire la tua grazia. Riceviamo in questo momento, perché non c'è nulla che noi possiamo dare per meritare tutto questo e per ricevere ogni benedizione che tu hai per noi. Nessuno sforzo, nessun atto religioso, nessuna autodisciplina, nessun impegno, nessun sacramento, nessuna osservazione di comandamenti, leggi, regole può farci ottenere il tuo amore. Non ne saremo mai degni, ma il tuo amore è disponibile per noi in virtù di quello che Gesù ha fatto e lo riceviamo. Io prego per ogni persona che si sente sola, che ti sente distante. Convinci ora Gesù, smaschera ora la bugia, fa che camminiamo nella verità. Alleluia. Vogliamo stare alla sua presenza. Vuoi fare tu la tua preghiera ora a Dio? Vuoi adorare? Vogliamo insieme avvicinarci a Lui. Non devi fare niente, non devi fare chissà cosa per avvicinarti ora a Dio. Ricevi, chiudi i tuoi occhi dove ti trovi. Se ti senti libero di farlo, alza le tue mani in segno di arresa e di semplicemente a Dio: ricevo la tua compagnia, ricevo la tua vicinanza, ricevo il tuo perdono, voglio coinvolgerti nella mia vita, voglio sperimentare la tua vicinanza. Alleluia.